Capitolo 7. Il macete. 21 dicembre 2018. Giardino incantato. Mi sveglio sempre stanca in questi giorni di lavoro intenso al ristorante. Resto a guardare il giardino dalla grande finestra mentre si sveglia. Tra un'ora più o meno sono sicura che arriverà Daniela, con un dolce e i suoi racconti sulla vita e i dubbi sul futuro. Poi comincerà la sfilata di anime perse che mi vengono a visitare. Il gordo, con i suoi problemi con la giustizia, con una vita passata al limite della legalità e che adesso si deve nascondere per qualche tempo, almeno fino a che non si calmano le acque nella capitale. L'altro giorno mi ha prestato i soldi per pagare l'affitto della cabagna. Io non gli ho chiesto da dove vengono, il suo sguardo mi ha fatto capire che era meglio non domandare. Durante la notte ho sentito i rumori di una lotta violenta tra la gallina, che dorme con i suoi pulcini sotto la papaya, proprio accanto alla grande finestra, e il tlacuace, che deve avere fatto colazione con il pulcino nero, quello che era lento e pigolava sempre. Poi arriveranno gli altri amici nel corso della mattinata, caffè, chiacchiere, Pietro con le sue storie sulle bellezze immaginarie dell'Italia. Nel frattempo è indaffarato nel giardino per creare un'area comune. Lo vedo che ha già costruito un tavolo con le assi di legno che stavano soccombendo al clima tropicale e quelle sedie quasi nuove che avevo trovato nell'immondizia lo scorso lunedì. Resto in silenzio, ascoltando la musica tropicale da una cassa lontana, con il pensiero che vaga verso l'amore che ho incontrato lì, in montagna, quello con il quale ci siamo scritti un paio di volte, ma che non ho idea di quando rivedrò. Hola. Buongiorno. Buongiorno. Come stai? Bene. È un video? Che? È un video? Sì, è un video. Traigo refractario. Perfetto, acá. Come fue il viaje? Bien. No pude conseguirte la charola. No, però adesso ya están bien, ¿no? Quando ho affittato la cabaña, i padroni avevano promesso di procurarmi un frigorifero, ma il miracolo ancora non è accaduto. Quindi la vicina di casa Rosy mi lascia usare il suo. Vado a mettere nel frigorifero la pentola di lenticchie e mi accolgono due signore, con lo sguardo saggio di chi conosce molte vite. Sono sedute al tavolino che da sempre sembra improvvisato, sotto alla tettoia che poi è la cucina di Rosy. Lei è uscita e loro mi offrono una tazza di cioccolato caldo. Lo hanno appena tostato e macinato. Donna Sofia mi guarda fisso negli occhi mentre parla della vita. Poi resta in silenzio un attimo e mi dice: il cammino è la felicità e la felicità è il cammino. Ho ricevuto la telefonata di mio padre, nella quale abbiamo parlato di come non abbia alcun senso che io ritorni nella madrepatria proprio adesso che ho aperto un'attività qui vicino al mare. Così, tra una lacrima di felicità e una di nostalgia, ci siamo salutati. Cancellerò il volo, resterò qui, dove le strade sono ancora così nuove che i nomi ce li inventiamo noi. E le persone, quando mettono i piedi nel mare, ricordano che hanno quei muscoli che permettono loro di sorridere. O profughi d'Italia, all'avventura si va senza rimpianti, né paura, nostra patria, il mondo intero, nostra legge è la libertà, ed un pensiero. Sofia si siede sulle mie ginocchia, ha 5 anni, 5 anni di felicità. Corre scalze con le ginocchia sempre sbucciate, su e giù per le strade e per la spiaggia. Le sue sorelle più grandi si vestono già da signorine, anche se ancora non sanno che cosa significherà per loro essere adulte a queste latitudini. I'm sure in front of lasagna everybody's surrendering. E ieri c'erano anche molti degli amici del galeone di sognatori che arrivano qui al ristorante. La Daniela mi ha aiutato in cucina, perché il re Mono e il gordo sono spariti, che andavano ad una festa che dura alcuni giorni qui, in una spiaggia vicina. Daniela ha l'aria di una bambina e le spalle grandi da uomo. Mi racconta della sua vita, di quando è caduta nei vizi ed è stata mandata in una comunità di recupero, che poi è arrivata qui, piena di sogni, per aprire un ristorante proprio come il mio, ma con i piatti tipici della zona della capitale. Per adesso lavora come cameriera, nella pizzeria proprio accanto al Giardino Incantato. Lei si barcamena tra la voglia di fare festa, che ha una ventenne, e la voglia di fare qualcosa nella vita, come ha promesso a sua madre prima di partire. 28 dicembre 2018. Spiaggia Grande. Resto seduta qui, guardando le onde che vanno e che vengono. Anche se vorrei andare via, come quella farfalla dalle ali giganti, gialle e nere, che sembra un centrino da tavolo tessuto da mani antiche. Mi vola attorno un paio di volte, per poi sparire rapidamente tra le mangrovie intricate del fiume in secca. Dicono che il mare, con le sue onde che cantano ogni qualvolta si infrangono sulla spiaggia, sappia regalare le risposte. Ma io resto a guardarlo e lui resta in un silenzio ermetico di quando le decisioni le devo prendere da sola. Il regalo di Natale è arrivato inaspettato. Un lucchetto che ha chiuso la porta del ristorante. Emanuel con il macete in mano, dicendomi che dovevamo andare via e che se volevamo le nostre cose avremmo dovuto pagargli dei soldi. Mi scende un brivido freddo lungo la schiena. Manuel è ubriaco alle 10 del mattino, il macete che segna il ritmo delle sue parole e gli occhi pieni d'odio. Arriva a salvare la situazione il piccolo principe, con la sua voce e la sua saggezza mi calma. In poche ore, mentre io vago tra pensieri e futuri catastrofici, lui organizza il trasloco. Chiama la ciurma nemica della galera alla deriva e tutti assieme smontiamo il sogno nel quale avevamo vissuto. Un'altra piccola bolla, in questa bolla più grande che si chiama paraiso. Già, un paradiso dove costa molto vivere. E non parlo di soldi. Chiude la fabbrica dei sogni. Chiude, perché era un bel sogno, che con o senza soldi stava finalmente unendo le persone che qui vivono, che questo paradiso lo amano, lo rispettano. Chiude la fabbrica dei sogni perché da sempre stride con la volontà di coloro che dicono essere gli antenati, i pionieri, coloro che si presentano come i padroni di queste terre e della loro stessa distruzione, coloro che sono stati stregati dal luccichio dell'oro, che vendono le terre e poi si lamentano dei bianchi che qui arrivano a costruire e fare i soldi sulle loro teste. Más fuerte. ¿Cuántos años tienes? Pero 30 dicembre 2018. Giardino Incantato. Gli amori sono proprio come i cavi elettrici, quelli delle cuffiette in particolare. Li metti in tasca appena un secondo e già si sono intrecciati, annodati e assolutamente impossibili da districare. È che quando comincia una storia d'amore, il mondo cambia la sua velocità. Si converte nel canto degli uccelli e del mare. Passano le immagini al rallentatore, gli sguardi si incrociano, la pelle trasuda ferormoni, il battito del cuore si sincronizza e sparisce il paesaggio tutto attorno. Una nebbia lenta avvolge solitarie le due anime, mentre si stanno annusando, conoscendo nei sogni e mangiandosi con gli occhi. Lui mi ha telefonato ieri pomeriggio. Domani arrivo. Ecco, si districano i cavi delle cuffiette e ci trasformiamo in linee parallele che alle volte si incontrano e che condividono assieme tempo e vita. Ho riattaccato che il cuore correva come un cavallo selvaggio, drogato di endorfine e ossitocina. La Daniela non ha dovuto domandarmi chi era al telefono. Piuttosto è rimasta ad ascoltare la mia cascata di parole, sogni e delucubrazioni sul prossimo futuro. Mi ha riportato sul pianeta Terra quando mi ha chiesto: «E come fai con i tuoi ospiti?» Ah, mi ero dimenticata, stregata per alcuni istanti dalla voce di lui, che la cabagna è piena di amici e conoscenti ai quali sto dando ospitalità. Penso per un momento di mandare tutti via all'istante. Poi mi sento in colpa, che sono musicisti, che vivono suonando per strada, artisti che viaggiano con pochi soldi, alla ricerca di persone come loro. Quindi monto la mia tenda in giardino e lo aspetto. Lui arriva nel tardo pomeriggio. «Hola, signora, come stas?» Lo sguardo profondo di guerriero antico e quella dolcezza che non riesce a nascondere nemmeno dietro una barba incolta di questi giorni passati in viaggio. Bienvenido.